Io mi sono avvicinato e ho detto hanno ammazzato Pio. La Sicilia intera piange Pio La Torre. Il 2 maggio dell'82 in occasione dei suoi funerali. Molti anni più tardi, per il suo omicidio, la Cassazione condannerà in via definitiva Totorina, Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Antonio Nenè Geraci. Secondo i giudici, la cupola mafiosa ha deliberato l'omicidio di La Torre per il pericolo che egli rappresentava e in particolare per la legge che stava preparando. Eppure in questa storia restano ancora delle zone d'ombra e degli interrogativi. Perché gli inquirenti hanno indagato anche su altre piste? Esiste una pista interna per l'omicidio di La Torre? E i servizi segreti che ruolo hanno avuto in tutto questo? C'è stato davvero un depistaggio delle indagini? E perché? Per tentare di rispondere a queste domande dobbiamo fare un passo indietro a quando Pio La Torre decide di tornare in Sicilia e avvia una decisa azione di pulizia all'interno del PC siciliano. Ce ne parlano l'avvocato Armando Sorrentino e l'amico di Pio La Torre, Domenico Bacchi. Si sapeva che nel Partito Comunista c'era qualcuno che non si comportava in maniera corretta, che faceva anche qualche affare. Lui che cosa fece? Deferì la cosa alla commissione di disciplina, che accertò che non c'erano ruberie, ma disse: è prudente che li leviamo da questi posti di responsabilità. Purtroppo c'è stato un momento in cui i magistrati e lo stesso Falcone aveva preso una baglia, e Falcone, questo lo disse a me, lo disse a Chiaromonte, disse che era stato anche ingannato da alcuni personaggi della Palermo di cui si era fidato. Se ammazzare Pio La Torre era una pulce dall'interno del partito, quello sarebbe morto nel giro di pochi giorni, perché lì si è scatenata una guerra contro la mafia e si è fatta la legge Rognoni La Torre, che pagava chi non c'entrava, pagava chi non c'entrava, e la mafia non è abituata a pagare per conto degli altri. Piste vere, piste false, dubbi e depistaggi. Le indagini sull'omicidio di Pio La Torre, insomma, sono più complesse di quello che sembra. Ma il vero colpo di scena arriva dalle carte del processo. Quando furono depositate le carte delle indagini, evincemmo che Pio era stato tenuto sotto osservazione dai servizi segreti dal 1952-53 al 76 ininterrottamente. Non abbiamo più documenti dal 76 fino all'ottobre 81, che coincide con il ritorno di La Torre in Sicilia, quando inizia la sua battaglia contro la mafia e con le marce sul Comiso. E se ne occuparono i servizi del SIOS dell'Aeronautica. È stato tenuto in osservazione dall'ottobre del 1981 all'aprile, 15-20 aprile del 1982. Com'è possibile che questo Pio La Torre, che fu seguito dai servizi in tutti i momenti della sua vita, e questi servizi furono assenti proprio nel momento in cui fu ucciso. Questa è una cosa molto inquietante. Avete sentito Emanuele Macaluso? Perché i servizi segreti hanno seguito Pio La Torre? E soprattutto perché hanno smesso di seguirlo proprio pochi giorni prima che venisse ucciso? Cosa può significare tutto questo? E perché i magistrati non hanno approfondito anche questo aspetto? Insomma, perché non si è indagato a fondo sul delitto La Torre? In realtà, dopo le stragi di Capaci, di Via D'Amelio e la morte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, emerge un'altra verità. È una verità che riguarda proprio Falcone e la sua ultima indagine, come spiega l'avvocato Armando Sorrentino. Dopo la strage di Via D'Amelio, Caponetto, quando ebbe a dire, pronunciare quella famosa frase di disperazione, è finito tutto, rilasciò un'intervista ed ebbe a dire: Giovanni firmò quella requisitoria sui diritti politici ma voleva che ancora si indagasse sull'omicidio La Torre. Le intenzioni di Giovanni Falcone sono confermate dagli appunti contenuti nel suo computer. In questi appunti Falcone si riferirebbe, senza però mai nominarlo esplicitamente, al procuratore capo di Palermo, Pietro Giammanco. 18 dicembre 1990. Dopo che ieri pomeriggio si è deciso di riunire i processi Reina, Mattarella e La Torre, stamattina gli ho ricordato che vi è l'istanza della parte civile nel processo La Torre, PC, di svolgere indagini sulla Gladio. La Gladio è un'organizzazione clandestina promossa dalla NATO per contrastare un'eventuale invasione sovietica dell'Europa occidentale. Ce ne parla l'avvocato Armando Sorrentino. Era appena scoppiato il problema della Gladio e allora noi come avvocati di parte civile presentammo un'istanza perché i giudici indagassero eventualmente sulla presenza di questa struttura segreta in Sicilia e se ci fosse connessione con i delitti politici. Nei suoi appunti Falcone continuerebbe a riferirsi, senza mai nominarlo, al procuratore Giammanco. 19 dicembre 1990. Non ha più telefonato a giudice Andrea. Così viene meno la possibilità di incontrare i colleghi romani che si occupano della Gladio. Noi ricaviamo la grande amarezza dell'uomo, la sua sconfitta su questo aspetto, ma egli voleva indagare ancora sull'omicidio della Torre. Cosa significa? Era come se noi gli avessimo dato la possibilità di un'apertura di un possibile scenario nuovo. Ciò non gli fu consentito. A Giovanni Falcone, insomma, non è stato consentito di indagare più a fondo sull'omicidio di Pio La Torre. L'ex procuratore capo di Palermo, Pietro Giammanco, da noi contattato, non ha accettato nessun dialogo con i giornalisti. Per chiudere, vogliamo tornare al protagonista della nostra storia e alla sua straordinaria eredità, la legge Rognoni-La Torre, a parlarcene Luciano Violante, Alfredo Reichlin e Attilio Bolzoni. L'esame non cominciò presto perché si aspettava che venisse presentata anche la proposta del governo, poi finalmente arrivò anche la proposta del governo, ma neanche questo fu sufficiente. Poi fu ucciso La Torre, ma neanche questo fu sufficiente, poi fu ucciso dalla Chiesa e finalmente a quel punto. In pochi giorni, credo tre o quattro giorni, l'approvavano alla Camera e anche al Senato, con scontri anche duri. Rognoni era un uomo importante, molto importante della Democrazia Cristiana. La legge passò perché aveva la doppia firma, il comunista e un democristiano. È stata una rivoluzione nel codice e anche nella guerra contro Cosa Nostra, perché per la prima volta, dopo anni, dopo decenni di processi finiti sempre in un unico modo, con l'insufficienza di prove, finalmente c'è stato il maxi processo di Palermo, il processo istruito da Giovanni Falcone, che dopo 5 o 6 anni, quindi siamo alla fine del 92, finisce in Cassazione e viene riconosciuto per la prima volta nella storia della giurisprudenza italiana il reato di associazione mafiosa. Mix 24.